Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo il mio blog sul Sole 24 Ore, si chiama Guardie o Ladri, lo trovate attraverso una semplice digitazione su un qualunque motore di ricerca. Come sapete, io spessissimo sul Sole 24 Ore, sul mio blog, seguo le vicende che provengono dalla Calabria. Così ho fatto ad esempio il 14 agosto del 2009 sul Sole 24 Ore, a seguito dell'approvazione di un'importante legge della Regione Calabria sulle primarie nella regione stessa per la scelta del governatore. È la seconda regione che lo fa dopo la Toscana. Lo ha fatto in un modo, come dire, tutto suo la Regione Calabria, come è giusto e doveroso che sia per il legislatore regionale. Un punto in particolar modo è stato, come direbbero i burocrati, attenzionato dagli osservatori, dai politici, vale a dire l'articolo 9. Perché che cosa prevede l'articolo 9 di questa legge? Che l'elettore, ciascuno di noi, al momento del voto si presenta al seggio, chiede al presidente o al vicepresidente del seggio la scheda della lista o della coalizione delle liste per le quali intende votare, con un documento di identità, chiaramente. Questo ha fatto insorgere moltissimi, perché la segretezza del voto verrebbe meno, perché l'unico aspetto che non si saprebbe è quello del nome del singolo prescelto, ma nel momento in cui si chiede la scheda della lista di quella o l'altra coalizione, chi si reca nel seggio già fa una scelta per l'uno o per l'altra coalizione. Enormi critiche e soprattutto un rischio paventato da professori universitari e magistrati, vale a dire quello che l'andrangheta, che spesso ha persone all'interno e all'esterno dei seggi, possa seguire e magari condizionare le votazioni. Di questi possibili abusi noi ne parliamo volentieri con il presidente del Consiglio regionale della Calabria, il dottor Giuseppe Bova. Buongiorno Bova. Buongiorno. E con il dottor Maurizio Feraudo, che è consigliere dell'Italia dei Valori in Regione Calabria, al quale questa legge invece non va tanto giù. Buongiorno consigliere Feraudo. Buongiorno, grazie. Allora, a lei innanzitutto, dottor Bova, in quanto promotore di questa legge, la difesa della legge stessa e le argomentazioni contrarie appunto a ciò che io ho appena espresso. È uno strumento questa legge che è in vigore in Calabria dal 25 agosto, è uno strumento per assicurare la libera partecipazione dei cittadini, cioè alla selezione dei candidati alla presidenza della giunta regionale. In qualche modo arricchisce e perfeziona le modalità di partecipazione diretta dei cittadini alla selezione delle classi dirigenti politiche e amministrative. Diciamo in un altro modo, fino a ieri in Calabria ciascuno di noi poteva esprimere la propria adesione, la propria preferenza su questo o quel candidato, ma sceglierlo magari erano in pochi fuori dalla Calabria. Da questo momento i cittadini che lo vorranno, perché il voto è facoltativo, potranno scegliere addirittura il candidato da votare. E questa è una cosa che assolutamente viene riconosciuta, credo, da tutti. Ma sull'elemento della segretezza e il rischio, diciamo così, di supervisione o infiltrazioni delle cosche, lei come la vede? Ma io penso questo, che anzi il meccanismo, io voglio dire, si tratta di una selezione di candidati, e allora il candidato che ciascuno vuole votare, la scelta è segreta, mentre è giusto che sia pubblica la scelta della coalizione, del programma. Ci sono varie forme in cui si esprimono questi diritti di cittadinanza attiva. Quando uno di noi vuole sottoscrivere una candidatura o assume le funzioni di rappresentante di un candidato di una lista, o quando si iscrive a un partito politico, questi atti, queste volontà sono pubbliche e formali, e quindi in questo senso, su questa scia noi abbiamo legiferato, quindi non c'è nessun fumus di incostituzionalità. No, questo d'accordo. È un problema delicato, che poi quello della mafia, va di bene, noi organizziamo, garantiamo delle regole, ma vogliamo che ciascun candidato e ciascun partito si assuma la responsabilità di chi porta a votare. Ed è più facile, insomma, che nella forma palese di espressione della volontà non si possa intrufolare qualche cialtrone, qualcheduno che non ha diritto a votare. Quindi, perché... in buona sostanza, dal suo giudizio e da chi ha votato questa legge, c'è una attenzione massima alla trasparenza e alla correttezza delle regole, e quindi ci si affida molto anche alla pulizia e alla trasparenza di chi candida, quindi dei partiti, è così? Sì. Benissimo. Sì. E si sa pubblicamente, se uno va lì, diciamo, per quale coalizione vota. Benissimo. Non si può nascondere, anzi all'opposto, si può isolare più facilmente chi tenta di inquinare il voto. Benissimo, questa è la visione del presidente del Consiglio regionale calabrese, Giuseppe Bova, quindi stiamo parlando di una tra le massime istituzioni della regione Calabria. Ma passiamo adesso a chi? E cari radioascoltatori, come vi avevo promesso, in principio sarà la prima di alcune puntate che dedicheremo a questo argomento. Passiamo a chi invece qualche dubbio l'ha sollevato anche nell'iter, diciamo così, legislativo, vale a dire all'Italia dei Valori. Consigliere Feraudo, che cosa non la convince di questa legge, segnatamente nell'articolo 9 di cui stiamo parlando, vale a dire il rischio, parliamo solo di rischio, che le cosche possano dire la propria direttamente o indirettamente nel condizionamento del voto. Prego, consigliere Feraudo. Intanto una premessa, le primarie come istituto sono, noi le sosteniamo e le incentiviamo. Non ritengo e non riteniamo opportuno che le primarie vengano disciplinate con una legge regionale, cioè l'onere di fare le primarie passi dalla coalizione dei partiti al Consiglio regionale, con tutte le conseguenze che ne deriva, anche in ordine alle spese di gestione. E poi ci andremo a questo. Adesso... Invece, per quanto riguarda le operazioni elettorali, le operazioni di voto, che sono quelle in base alle quali l'elettore deve dichiarare quale scheda, quale coalizione intende votare, ritengo che questo è stato detto da autorevoli professori, da autorevoli giuristi, da magistrati, c'è un rischio concreto che ci sia un inquinamento, quantomeno un condizionamento da parte, almeno in quei comuni, e non sono sicuramente pochi in Calabria, dove è forte il condizionamento della criminalità. A suo giudizio, Feraudo, i signori delle tessere, quindi diciamo così i portatori d'acqua dei partiti, coloro i quali in maniera confusa, indisciplinata, pulita o non pulita, hanno molti sostenitori, godranno di questa legge oppure invece no? Se hanno come obiettivo quello di portare a compimento una certa operazione, certo che ne godono di questa legge. Io, rispetto a quello che diceva il presidente Bova, voglio fare una precisazione: non può essere vero che questa legge impedisce ai cialtroni, diceva lui, di andare nei seggi e quindi di controllare queste incursioni. Anzi, siccome sono pubbliche elezioni, cioè nel momento in cui un elettore si presenta nel seggio elettorale e il presidente è tenuto a farlo votare, allora in questo modo è chiaro che non può essere controllato o impedito a quella persona di esercitare un diritto di voto, sebbene si sa che potrebbe essere un voto che va ad inquinare le operazioni. Benissimo, io ringrazio Ferraro di questa precisazione, mi pare che ci sia motivo di parlarne. A mio giudizio è una legge, come tutte le leggi, ha dei buonissimi propositi, ma ha degli aspetti davvero come questo preoccupanti. Bova, allora, i signori delle tessere, che in Calabria purtroppo sono tanti, e lei lo sa che alcuni di questi sono stati anche condannati e anche riemessi in consiglio regionale, godranno o meno di questa legge? Guardi, quelli che lei chiama i signori delle tessere o quelli riammessi, quelli comunque fino a ieri decidevano da soli. La novità di questa legge è che la gente normale, che poi deve scegliere tra quelli che i partiti da soli oppure gruppi ristretti hanno deciso di candidare, che questi dovranno fare i conti con 1 milione di elettori calabresi. E siccome io non penso che la Calabria è fatta tutta di marioli, no, assolutamente. Penso che in questa maniera non c'è dubbio che diminuisce, no, diminuiscono i privilegi dei cosiddetti signori delle tessere. Assolutamente. Perché d'accordo con lei. Sia, come lei sa, il voto di ognuno vale uno. Quindi noi mettiamo in campo, diciamo, cittadinanza fresca, che fino a ieri non si è potuto esprimere sulla scelta dei candidati a presidente, e da domani, no, per legge, si potrà esprimere. Potrà esprimere con più forza la propria volontà. È un modo di rendere più pesante la volontà dei cittadini. Questo dico io, e questo è incontrovertibile. Presidente Bova, io la ringrazio della sua testimonianza, così come ringrazio il consigliere Feraudo. Domani torneremo ancora sull'argomento con nuovi ospiti. Io nel frattempo ringrazio in regia Filippo Aureggi, in studio Laura Faggin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.